Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'alta sicurezza per la partita Italia-Israele che si disputerà questa sera a Udine al Friuli. L'antiterrorismo blinda lo stadio e gli hotel delle squadre. Preoccupa il corteo di protesta pro-Palestina organizzato per il pomeriggio. Campagna vaccinale al via in regione, 248.000 dosi contro l'influenza e si può abbinare anche l'anti-Covid. Vaccino raccomandato e assicurato gratuitamente agli over 60 e soggetti fragili. Rinviata a febbraio l'udienza sul caso Una Bomber, i periti hanno chiesto più tempo per depositare le rispettive relazioni sui reperti alla luce delle nuove tecnologie. Attivo da oggi a Udine il nuovo sportello donna, vi si potrà rivolgere gratuitamente e consultare un'avvocata specializzata in diritto di famiglia sulla propria situazione personale e familiare. Basket, seconda sconfitta esterna di fila per Gesteco Cividale che perde contro Verona. Prossima gara l'atteso derby contro Udine, mercoledì. Netta sconfitta per la pallavolo femminile contro le campionesse d'Italia ed Europa dell'Imoco Conegliano nel debutto casalingo della A1. Ancora un cordiale buongiorno da Lara Zani e da Elisabetta Zaccolo che vi parla in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Non solo calcio blindato, ma anche il centro di Udine blindato oggi per due eventi. La partita di questa sera tra Italia e Israele e il corteo pro-Palestina organizzato prima del match. Attorno allo stadio dissuasori e reti alte 3 metri, controlli rafforzati. I vertici dell'antiterrorismo impegnati da giorni con i colleghi di sicurezza di Tel Aviv, giunti al seguito della nazionale israeliana. Davanti al municipio di Udine è apparsa nella notte la scritta «Comune complice del genocidio palestinese, ban Israel e no patrocinio», si legge. Messaggio di tenore analogo anche davanti alla sede della regione. Arriviamo mentre gli addetti stanno cancellando i segni della bomboletta. Chiaro il riferimento alla scelta del sindaco Detoni a poco più di 2 mesi dal patrocinio negato di concedere il sostegno simbolico a Italia e Israele di Nations League a fronte dell'organizzazione di un evento di pace il prossimo 28 ottobre ad Arezzo. Il primo cittadino sarà allo Stadio Friuli questa sera, con lui anche il presidente dell'Associazione Italia-Israele di Udine, Giorgio Linda, ma anche la comunità ebraica di Trieste, incluso il Rabbino Capo, che si sono organizzati per venire a tifare entrambi le nazionali. Alcuni consiglieri comunali di maggioranza saranno invece al corteo contro la partita, in sostegno della causa palestinese, che dalla stazione partirà intorno alle 17 per arrivare a Piazza 20 Settembre. Partita e corteo saranno due eventi paralleli destinati a non incrociarsi mai. In zona Parco Moretti, perché geranno i mezzi delle forze dell'ordine giunte da tutta Italia per il dispositivo sicurezza. Per il match della nazionale si schiereranno effettivi in divisa in numero più che doppio rispetto a una partita di cartello di Serie A. Molto superiore rispetto alla norma sarà anche il numero di steward allo stadio, 450. Blindato non solo da polizia ma anche da servizi segreti, l'hotel dove alloggia la squadra di Israele. A nord di Udine, fuori dall'impianto, eccezionali misure di sicurezza, transenne e dissuasori arrivati in città già venerdì scorso a delimitare la zona rossa. Solo squadre staff, addetti ai lavori e spettatori potranno accedervi. Cancelli aperti dalle ore 18.30. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Perché la partita Italia-Israele viene disputata proprio a Udine e come stanno influendo sulla vendita al botteghino il timore di disordini e la città blindata? Ne abbiamo parlato questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Regione. La partita Italia-Israele di questa sera a Udine fa parte di un pacchetto di gare concordate tra Regione Friuli Venezia Giulia e Nazionale Italiana da tempo, spiega Hermes Canciani, presidente del comitato regionale della FIGC. Prima c'è stata la Nazionale Under 17 a Trieste, poi la Nazionale Under 18 a Tarvisio, domani ci sarà la Nazionale Under 21 a Trieste contro l'Irlanda, importante per la qualificazione agli europei. E questa partita contro Israele? Questa partita è stata decisa, se vogliamo, 4-5 mesi fa, perché chiaramente ancora non era così esplosiva la situazione in Israele e quindi si pensava sia una gara importante, ma non in queste condizioni. Ricordo che la partita precedente col Belgio è stata giocata addirittura fuori dal territorio del Belgio, proprio per motivi di sicurezza e a porte chiuse. La macchina messa in campo per garantire la sicurezza sicuramente ha influito sul botteghino. Quando è venuta la nazionale qui, anche per gare decisamente meno importanti, avevamo sempre lo stadio pieno. Adesso siamo sull'ordine, credo, 10-11 mila, quindi metà stadio, occhio croce. La partita si potrà vedere alle 20.30 su Rai 1 e sarà una partita per la pace in Medio Oriente, ha detto Canciani, sposando quindi l'augurio del CT della Nazionale Luciano Spalletti. Noi crediamo di dare una mano a coloro che devono lavorare per riportare la pace in quei territori martoriati. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Avvia in Friuli Venezia Giulia la campagna vaccinale contro influenza e Covid, campagna presentata questa mattina dal presidente Fedriga che dice puntiamo alla massima copertura vaccinale. La campagna vaccinale parte oggi stesso, le dosi sono arrivate, sono state distribuite e sono pronte. C'è il vaccino antinfluenzale aggiornato, c'è quello anti-Covid che tiene conto delle varianti più recenti fino alla JN1. Si possono fare insieme, naturalmente sono consigliati a tutti, salvo agli intolleranti, come peraltro illustra la campagna della regione presentata poco fa. Ci sono categorie alle quali la vaccinazione è maggiormente raccomandata, per quella contro l'influenza, gli over 65, le persone con patologie, le donne gravide, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e per quanto riguarda l'anti-Covid, gli over 60, le altre categorie già citate, i donatori di sangue e inoltre quelle che potrebbero venire a contatto con altri virus che potrebbero essere trasmessi dagli animali all'uomo, allevatori, trasportatori, macellatori, veterinari. Per tutti questi la vaccinazione è gratuita. Il vaccino è sicuro, sottolinea il presidente della regione Fedriga, è il frutto della ricerca ed è di questa che dobbiamo fidarci. Importante, dice insieme all'assessore alla sanità Riccardi, che a vaccinarsi siano gli operatori sanitari, perché sono loro che entrano a contatto con i virus e le strutture non possono permettersi di restare sguarnite perché i sanitari si ammalano. Bisogna combattere contro la disaffezione che è subentrata negli anni successivi al Covid, aggiunge Riccardi, quelli in cui le pressioni hanno determinato talvolta un rifiuto. Le cifre lo confermano, nelle ultime stagioni la copertura è scesa mentre è aumentata l'incidenza delle sindrome influenzali. Meglio vaccinarsi il prima possibile e entro la fine dell'autunno, anche se si potrà farlo anche più avanti. Trieste, Giampaolo Mauro, TGR Friuli Venezia Giulia. Domani gli ambulatori di medicina generale della regione saranno chiusi per consentire ai medici di famiglia di partecipare alla formazione continua obbligatoria al congresso regionale annuale organizzato a Grado, che verterà sulla cura delle malattie croniche. In particolare verrà trattata la gestione delle persone fragili o anziane. Verrà attivata la guardia medica sostitutiva nelle sedi aziendali per le ore diurne dalle 8 alle 20. Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è da nuvoloso coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 19 gradi, a Gorizia 17 gradi e 5 decimi, a Udine Pordenone 16, a Tolmezzo, Forni di Sopra e Tarvisio 10 gradi e 5 decimi, a Piancavallo a Sappada 9, sul Monte Zoncolan 5 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 6 gradi, a Grado 17,5, a Lignano 17 gradi. E vediamo le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi pomeriggio: cielo in prevalenza nuvoloso sulle zone occidentali e sui monti, coperto con qualche debole pioggia su quelle orientali. Domani prevalenza di bel tempo con cielo poco nuvoloso sulle zone pianeggianti al confine col Veneto e sulla costa, al mattino sarà possibile maggiore nuvolosità dovuta a nubi basse. È stata rinviata al 24 febbraio l'udienza sul caso Una Bomber che si è tenuta questa mattina al Tribunale di Trieste. I periti hanno chiesto più tempo per depositare le rispettive relazioni sui reperti alla luce delle nuove tecnologie. L'incarico per le nuove analisi sui reperti attinenti alle indagini Una Bomber era stato conferito il 13 marzo 2023, quindi oltre un anno e mezzo fa, ma i periti non hanno ancora concluso il loro lavoro e quindi al Tribunale di Trieste il giudice per l'udienza preliminare Luigi Dainotti ha dovuto rinviare l'incidente probatorio al 24 febbraio 2025. L'avvocato Alessandra Devetag, che difende 6 imputati. Devono repertare il DNA di tutti i soggetti entrati in contatto con questi reperti e questa pare che sia la difficoltà maggiore. Addirittura si parla di soggetti che all'epoca rinvenirono i reperti, il che ci lascia francamente perplessi, perché questo tipo di analisi pensavamo fosse stata già eseguita nella prima indagine e rende praticamente monumentale il lavoro da fare. Le indagini erano state riaperte dopo un esposto presentato dal giornalista Marco Maisano e da 2 vittime delle bombe, Francesca Girardi e Greta Momesso. Essi sostengono che alcuni elementi ritrovati non sono stati analizzati, tra questi alcuni peli su una bomboletta di stelle filanti inesplosa, su un uovo inesploso e su due nastri adesivi utilizzati per altri due ordigni. L'avvocato Maurizio Paniz, difensore di Elvo Zornitta. Sono dispiaciuto per le persone interessate che non vedono l'ora di vedere la parola fine su questa vicenda, e penso anche purtroppo che la giustizia una volta di più dimostri tutti i suoi limiti, e lo dico con profondo dispiacere e con profondo rispetto per tutti gli operatori che dedicano l'anima ma che qualche volta si trovano di fronte a situazioni più grandi di loro. Alla figura di una bomber gli investigatori attribuiscono 34 ordigni posizionati tra il 1993 e il 2007 nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia. L'avvocato Leopoldo Daros, difensore di due imputati. La posizione di queste persone che si trovano indagate, che soffrono continuamente, che continuano a apparire ciclicamente sui giornali, è un peso notevole per loro, per cui l'augurio è che si possa veramente finire al più presto, avere questi dati e chiudere questo capitolo. Trieste, Maurizio Merva, TGR Friuli Venezia Giulia. È morto nella notte per un infarto il sindaco di San Pier d'Isonzo, Claudio Bignolin. Bignolin, 69 anni, era il suo terzo mandato da primo cittadino. Trieste, assieme a Prato, Genova, Monza, Brianza, Rimini, Fermo e Milano, è una delle province italiane nelle quali gli incidenti stradali risultano meno gravi. È uno dei dati che emerge da ACI Istat, secondo la quale, tra l'altro, sono Padova, Novara, Alessandria, Torino le province italiane in cui si è registrata nel 2023 la diminuzione più significativa del numero delle vittime sulle strade. Il maggior aumento del numero delle vittime è stato invece rilevato in Calabria, Sicilia e Abruzzo. Rispetto al 2019, 42 province su 107 hanno fatto registrare un aumento del numero dei morti sulle strade. In altre 56, invece, tale numero è diminuito. In 9 province il numero dei morti è rimasto stabile. In 8 province, inoltre, è stato già raggiunto l'obiettivo del dimezzamento delle vittime rispetto al 2019. Da oggi la Casa delle Donne Paola Trombetti in via Pradamano a Udine si arricchisce di un nuovo servizio, lo Sportello Donna. Lo sportello fornisce le informazioni necessarie per tutelare i propri diritti, con particolare attenzione alle leggi sul diritto di famiglia. Fornisce ascolto e primo orientamento legale per accedere alla giustizia, al gratuito patrocinio e informazioni per intraprendere percorsi di mediazione familiare. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 10 alle 12. La Casa delle Donne di via Pradamano 21 a Udine si arricchisce di un nuovo servizio, lo Sportello Donna, un recapito di orientamento e consulenza legale gratuita che si avvale di un'avvocata esperta in diritto di famiglia ed è rivolto, ovviamente, alle donne. Si potranno avere le informazioni necessarie per tutelare i propri diritti, con particolare attenzione alle leggi sul diritto di famiglia. Un'avvocata fornirà ascolto e primo orientamento legale per accedere alla giustizia, al gratuito patrocinio e informazioni per intraprendere percorsi di mediazione familiare. Sarà poi anche terminal del servizio del Comune di Udine Zero Tolerance nei casi di maltrattamento e violenza. L'avvocata Anna Del Mestre è tra le volontarie che ascolterà e aiuterà le donne. Io, che non voglio sostituirmi alle istituzioni o agli avvocati, a nessuno, farò da tramite e cercherò di renderle edotte di quello che sono i loro diritti. Ritengo che in questo momento difficile e particolare, in questa società in cui viviamo, l'ascolto sia un qualcosa di raro, perché sono mancati quelli che sono stati a suo tempo i baluardi, il prete che ci ascoltava, il medico di base, il farmacista. Le donne sono sole, se non hanno una struttura familiare che le supporta, e questo non è sempre scontato. Lo sportello è aperto il lunedì dalle 10 alle 12, dove si può telefonare per stabilire un contatto. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. si concentra sul welfare territoriale, sulla nuova visione del lavoro, la terza edizione del Forum Nazionale delle Società Benefit, appuntamento che chiama raccolta le società benefit regionali, nazionali e internazionali per 2 giorni all'anno in Friuli Venezia Giulia, quest'anno pensata per un forte coinvolgimento delle giovani generazioni sul territorio. Nella nostra regione le società benefit sono in costante aumento, il modello proposto da queste società, ha commentato l'assessora regionale al lavoro Alessia Rosolen, annunciando il programma dell'evento, ci consente di progettare azioni legate agli scenari che si stanno delineando, tutte tematiche che verranno approfondite nel forum. Le aziende sono un tassello della comunità e hanno una responsabilità nella creazione di valore sul territorio. Le società benefit, in particolare, ha aggiunto Rosolen, sono attori fondamentali nella creazione di un welfare a filiera corta. Prima giornata mercoledì 16 a Pordenone, il giorno dopo a Gorizia. E ora torniamo a occuparci della Barcolana con quella che è stata la timoniera più veloce di questa edizione, Iana Germani. Ospite di Buongiorno Regione ha parlato del suo 4º posto ottenuto ieri. È stato perfetto, non ce n'era né troppo né troppo poco, tantissime imbarcazioni sono riuscite a tagliare il traguardo, quindi questo è ottimo, veramente una Barcolana perfetta dalla partenza all'arrivo. Perfetta dalla partenza all'arrivo, Barcolana 56, parola di Iana Germani, classe 1999, atleta olimpica di vela che regata per la Marina Militare. La timoniera che ha portato la barca da crociera generali a guadagnare il 4º posto subito dopo barche più performanti da regata. Per me rimane una grande festa per la città, per la vela. Mi piace sempre partecipare quando sono qui a casa. Rientrata dalle Olimpiadi di Parigi con un ottimo 5º posto nella 49er, pronta per la nuova campagna olimpica, sarà sempre con Giorgia Bertuzzi? Chiediamo. Prossima campagna olimpica sì, probabilmente non con Giorgia Bertuzzi, sono ancora in fase di valutazione, di capire quale sarà la mia compagna per i futuri 4 anni. In barca da quando aveva appena 7 anni, le condizioni particolari ed estreme del Golfo di Trieste sono state una bella palestra. Sicuramente la Bora è una gran maestra, diciamo che quando il vento salta così tanto io mi trovo molto a mio agio e anzi mi piace diciamo sfidare ogni pressione, ogni raffica, e quindi questo comunque si manifesta anche in giro per il mondo, quindi sono sempre felice quando il vento è da terra e mi sento un po' a casa. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo al basket, Serie A2, Gesteco Cividale ha perso in trasferta contro Tezenis Verona per la squadra di coach Pilastrini e la seconda sconfitta esterna consecutiva. Quando finisce l'energia, Cividale non può nulla. I Ducali perdono con onore a Verona, squadra in difficoltà ma con altri obiettivi stagionali. Il primo quarto è in rincorsa, la difesa fa fatica ma la squadra di Pilastrini rimane a contatto con i rimbalzi e i canestri di Ferrari e con un insolito alley-oop Marangon Redivo. Nel secondo periodo Dell'Agnello e compagni mettono la freccia con un canestro e fallo da circo di Berti, immediatamente riacciuffati da Palumbo. Un ottimo Redivo permette comunque di rimanere a contatto a metà, sotto di una sola lunghezza. Ripresa due facce per la Gesteco, i ritmi si abbassano, il controllo dei rimbalzi favorisce gli scaligeri che hanno una taglia diversa e vanno a +7 con una tripla di Faggian. Con pazienza e un tiro sbilenco di Dell'Agnello, Cividale torna a -2 a 5 minuti dalla fine. Redivo acciaccato non dà il solito contributo e i possessi sono distribuiti male. Un canestro fortunoso di Pullen ipoteca la vittoria per la Tezenis e la squadra di Pilastrini non ha più le energie per reagire. 82-72, apprensione per il bomber argentino in vista del derby di dopodomani contro la Pudine Inter Longobarda, con Mastellari sicuramente fuori per infortunio. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Pallavolo femminile, la CDA Talmassons ha perso per 3-0 contro le campionesse d'Italia ed Europa del Limoco Conegliano nel debutto casalingo della A1. Non era pensabile vincere contro Conegliano, però il solo fatto di arrivare 23-24 nel primo set e di reggere il confronto con le campionesse d'Europa e d'Italia è un risultato. Il debutto casalingo in A1 è prima di tutto una festa di sport, con 1860 spettatori che hanno riempito gli spalti del palazzetto di Latisana in ogni ordine di posti. Va detto che l'allenatore delle Venete Santarelli ha fatto ampio ricorso al turnover, out Chirichella e Lanier, Vowosh impiegata solo per pochi scambi. Però c'erano Haack, Gabi, De Gennaro e Farr tra le giocatrici migliori al mondo nel rispettivo ruolo, se non le migliori in assoluto. Talmassons ha dato il meglio nel primo set con 4 punti di vantaggio massimo e 2 lunghezze sul 18-16. Poi il Conegliano ha messo a segno quei punti che fanno la differenza, seppure di poco. L'equilibrio ha caratterizzato la prima metà del secondo set, poi è salita in cattedra l'opposta Hack, 18 punti per lei a fine partita, e le venete, sospinte dall'ala Lukasik, 12 punti, e dai muri della Far, hanno piazzato il break decisivo, 25-20. Terzo set a fasi alterne, con una prevalenza più marcata delle ospiti, anche se la CDA ha continuato a lottare con grande determinazione. Conclusione sul 25-18 per Conegliano Pigliatutto. L'ala Sherban e l'opposta Krajduba sono state le giocatrici più utilizzate in attacco dal Talmassons. È mancato qualcosa in difesa nei primi due set, come ha sottolineato il tecnico della CDA Barbieri. Prossimo impegno domenica a Bergamo contro una formazione a punteggio pieno. Non sarà come affrontare il Conegliano, ma l'avversaria sulla carta è molto ben attrezzata. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. Presentato a Udine il programma della 33esima edizione del Festival di Musica Sacra Caritas et Amor, promosso da PEC Presenza e Cultura in sinergia con il Centro Iniziative Culturali di Pordenone per la direzione artistica di Franco Calabretto ed Eddie Denadai. Ma sentiamo Calabretto che ci ha dato alcune anticipazioni. Si apre la 33esima edizione del Festival di Musica Sacra, seconda annualità di un progetto triennale dedicato alle virtù teologali. Questo è l'anno della Caritas, della carità. Quindi saranno 17 concerti, 3 conferenze, 3 mostre d'arte, quindi progetto multidisciplinare. Mi piace sottolineare la presenza di giovani compositori, perché sono 3 le commissioni che abbiamo richiesto, e la presenza di eccellenze regionali come il Coro Friuli Venezia Giulia, l'Accademia Rigoni, l'Orchestra Camera di Pordenone, i Filarmonici Friulani. Questo è un vanto per noi, poter essere palcoscenico per i nostri migliori artisti, quando anche e soprattutto giovani. Il festival inizia domenica prossima, domenica 20 ottobre alle 20:45 nel Duomo di Pordenone, con un lavoro molto importante. Una sacra rappresentazione, Transitus, il cielo di Francesco, è una sacra rappresentazione per baritono solista che appunto incarna la figura del santo, 4 voci maschili, 4 strumenti ad arco e armonium del noto compositore friulano Christian Carrara. È stata una commissione del Festival di Ravenna di 2 anni fa. Quest'anno viene ripresa con la collaborazione del Festival Pergolesi Spontini ed Emilia Romagna Festival, quindi siamo in compagnia di 2 festival molto importanti. È una sacra rappresentazione, una sorta di liturgia della memoria. Francesco canta l'avvicinarsi di Sorella Morte, quindi un qualche cosa che avrà anche una azione scenica con luci e movimenti degli artisti impegnati. Quindi siamo molto felici di aprire questa edizione con questa sacra rappresentazione di Christian Carrara. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Riccardo Stoic, Viola Romanese e Marco Ferrito. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.